Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata soprattutto a coloro che sono in movimento, nonostante la pioggia, per andare ad assistere a qualche sagra, a qualche festa di piazza dove il cibo è protagonista. Ebbene, parleremo oggi, avrete capito, di sagre. Le sagre sempre di più stanno diventando un fenomeno importante dal punto di vista dei microturismi, ma anche e soprattutto anche dello sviluppo dei prodotti, della conoscenza dei territori. Insomma, un fenomeno sicuramente che ha tutti questi lati positivi, ma anche molti altri lati negativi che vedremo. È in corso da un paio d'anni una guerra tra, diciamo, associazione dei ristoratori o degli esercizi pubblici con le sagre, che sono accusate di fare concorrenza sleale. Quindi vedremo anche questo, appunto, diciamo, soprattutto a chi somministra cibo. Bene, io voglio iniziare questo viaggio dandovi innanzitutto il numero verde per poter intervenire, segnalare magari sagre particolari: 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, cominciamo questo viaggio da Montecatini, dove in questo momento è in corso Territori in Festival, che è un po' il summa delle sagre, la sagra delle sagre, dove tante sagre sono a partecipare, quindi tutte assieme, diciamo, a mostrare le loro realtà. E a Montecatini c'è un importante organizzatore di una grande festa, che è quella del peperoncino, appunto, che avviene a Diamante, già avvenuta in provincia di Cosenza, si tiene il primo weekend di settembre, che ha avuto un successo strepitoso negli anni. Buongiorno a Enzo Monaco, che è anche presidente dell'Accademia del Peperoncino. Buongiorno a voi. Enzo, io vorrei che tu dicessi brevemente che cosa ha significato questo festival per lo sviluppo del vostro territorio e per lo sviluppo anche del consumo del peperoncino. Beh, intanto parlano i numeri, abbiamo avuto 200.000 presenze in 5 giorni, gli alberghi hanno registrato il tutto esaurito, 120 stand che hanno venduto prodotti piccanti. Diciamo che è stata una boccata di ossigeno per una estate che poi tanto bene non era andata. E inoltre la manifestazione ha come orari 19-24, per cui tutte le mattinate sono state dedicate a escursioni sul territorio e quindi anche la possibilità di conoscere ed apprezzare le bellezze eccezionali di questo territorio. Siamo in Calabria, nella Riviera dei Cedri, a Diamante, capitale del peperoncino. Ecco, Enzo, volevo chiederti anche questo: è servita per così, diciamo, parlare, illustrare il prodotto, quindi far conoscere il prodotto? Sì, sicuramente, perché la peculiarità poi della nostra manifestazione è quella che, assieme agli stand, assieme ai momenti gastronomici, ci sono dei momenti di approfondimento, intanto dal punto di vista medico, ci sono i convegni medici che spiegano che il peperoncino fa bene alla salute. In particolare quest'anno abbiamo fatto un eccezionale convegno su diabete e peperoncino, e poi ci sono gli chef, che c'è stato Fabio Camboli di Uno Mattina e c'è stato lo chef Kumalè, che ci hanno presentato delle ricette nuove ed originali, per cui il partecipante al festival ha potuto intanto apprendere tutte le notizie sulla coltivazione, le mostre di peperoncini, ha potuto capire che il peperoncino fa bene alla salute, ma ha anche avuto possibilità di come utilizzarlo questo peperoncino, con ricette nuove e con creazioni di chef importanti. Bene, grazie a Enzo Monaco, grazie, a presto. Bene, continuiamo questo viaggio, ricordo numero verde 800 24 00 24. Abbiamo con noi Lino Stoppani, presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Ebbene, la FIPE, diciamo che un paio d'anni fa ha, come dire, messo un paletto alle sagre, ha cominciato a discutere appunto su come venivano organizzate, perché finivano per essere forse una concorrenza sleale verso la ristorazione e i pubblici esercizi. Comunque ora sempre la FIPE sta collaborando con l'Associazione delle Proloco Italiane proprio per mettere a punto un manifesto, un documento appunto di comportamenti. Buongiorno Stoppani. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Sempre in guerra con le sagre? Assolutamente no. Certamente però è un fenomeno tipicamente italiano che va ricondotto entro i limiti e i contorni di una giusta iniziativa che, nata come bisogno di marketing territoriale, oggi spesso è degenerata in tante declinazioni che di sagra o di hanno poco. A nostro avviso, ecco, la posizione su questa, su questo fenomeno è fatta di buon senso e di giusta elasticità nel considerare il fenomeno, che non può essere certamente ingabbiato in schemi eccessivamente rigorosi, però si richiede un deciso contrasto a quello che è l'abusivismo e un minimo di controllo, anche perché va ripristinato un minimo di corretta libera concorrenza. Per cui quelle che sono le nostre posizioni è che non è accettabile che su tutto il territorio nazionale nascano feste di varie colorazioni e finalità che fanno importanti introiti senza il minimo rispetto degli aspetti amministrativi o fiscali, senza il minimo rispetto degli aspetti igienico-sanitari o ambientali, leggi rifiuti, oppure di sicurezza, e magari con il sostegno di conniventi amministrazioni comunali che trovano anche comodo e facile l'occasione per far reperire risorse su iniziative che dovrebbero essere di loro competenza. Per cui la posizione della FIP su questo argomento, ripeto, di elasticità e di buon senso, è anche quella, per esempio, che gli organizzatori dovrebbero essere certificati e non un gruppo di improvvisato di persone dietro un'iniziativa, cioè ci devono essere un'organizzazione anche no profit regolarmente costituita che dia affidabilità, credibilità e trasparenza alle manifestazioni. Bene. Poi ogni sagra dovrebbe avere un proprio torno economico, un proprio rendiconto con la corretta destinazione anche dell'avanzo alle finalità proprie dell'organizzazione, e poi a mio avviso va designato un organo di coordinamento delle sagre per evitare quello che succede adesso, un'inflazione che non può essere accettata. Bene, grazie a Lino Stoppani. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di sagre. Sentiamo subito una radioascoltatrice, Vera da Firenze. Buongiorno Vera. Sì, buongiorno signor Farini. Sono contentissima che lei sta facendo questa trasmissione. E premetto che non ho nessuna relazione, io nella vita faccio tutt'altro, però mi piace viaggiare e mi capita anche andare nelle sagre. Devo dire che da circa 4-5 anni le sagre, nella maggior parte dei casi, una su 100 forse, sono diventate uno schifo. Perché? Si mangia peggio perché la roba molte volte è assolutamente proveniente da frigoriferi e non dalla zona che dicono di... Cioè una piccola parte forse proviene dal luogo di produzione, però poi siccome hanno incrementato il numero dei clienti sono costretti a ricorrere, tipo se c'è la sagra dei funghi sulle montagne toscane, una parte dei funghi viene dalla Romania, anche perché non si capisce come mai i fungaioli non trovano funghi, però la sagra c'è tutti gli anni. Vabbè. Poi l'altra cosa, un eccesso di produzione di plastica, perché si mangia o non si mangia nei piatti, quindi l'altra cosa che noto è che questo è un danno non per il commercio in generale, ma per i piccoli ristoratori, quelli che magari hanno dei prezzi più onesti e più abbordabili, e come al solito anche per i consumatori di portafoglio meno capiente. Bene, io la ringrazio Vera, lei così appunto ha posto una serie di punti sicuramente che cercheremo poi di approfondire, ma le posso rispondere che in questo momento, in questi giorni, proprio a Montecatini, durante Territori in Festival, un gruppo di esperti e un gruppo anche di rappresentanti di associazioni stanno mettendo a punto un manifesto diciamo per le sagre, dando definizioni e dando anche contesti e dando anche finalità, quindi speriamo che da questo documento emerga qualcosa di positivo. Sentiamo Gherardo da Como. Buongiorno Gherardo. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Senta, io sono un appassionato di sagre perché trovo che siano una cosa tipicamente italiana e una cosa sicuramente molto simpatica col quale uno può anche viaggiare un pochettino e scoprire tante belle cose della nostra Italia. La mia domanda era questa: secondo lei esiste in Italia un pubblicazione, un libro, un sito dove possa uno trovare il calendario delle varie sagre nelle varie regioni d'Italia? Guardi, signor Gherardo, il problema è molto complicato, nel senso che ci sono solamente in Toscana, diciamo recensite dalla regione, 1600 sagre, quindi se facciamo un conto io non so a che livello si arriva a un numero davvero formidabile, un po' difficile, soprattutto anche perché spesso c'è il cambiamento di data, spesso magari le associazioni che lo organizzano è difficile reperirle per avere delle informazioni, insomma non è facile e magari in futuro cerchiamo, forse qualcuno riuscirà a fare questo diciamo catalogo, ma abbiamo con noi una giornalista di Food and Wine dell'Espresso, Eleonora Cozzella. Buongiorno Eleonora. Buongiorno, come va? Bene, bene. Volevo sapere, tu sei in paesi freddi, qua piove comunque, e non so se da te nevica. Ma... No, qui in Svezia devo dire non nevica, bene. Non fa neanche tanto freddo. Ecco, Eleonora, volevo chiederti, tu cosa ne pensi? Hai sentito l'intervento, credo precedentemente, molto critico della signora sulle sagre. Tu cosa ne pensi? Allora, innanzitutto ti faccio i complimenti perché il tema è interessantissimo e anche a Montecatini in questi giorni so che sei coinvolto, credo, in questo manifesto che ci stavi, che è molto importante. E quindi ritorno anche a quanto diceva la signora nel primo intervento. Purtroppo è vero, siccome le sagre funzionano, c'è un po' un decadimento perché, visto che comunque richiama pubblico, richiama molti curiosi, appassionati, gente semplicemente che vuole viaggiare e conoscere a poco prezzo dei prodotti anche interessanti, ci si marcia un po' sopra e quindi non sempre si è attentissimi alla qualità. E io spero che questo manifesto possa anche da questo punto di vista aiutare. Guarda, abbiamo con noi un professore dell'Università degli Studi di Milano, Michele Corti, che è docente dei sistemi zootecnici, però al di là di questo di essere docente è caduta la linea, speriamo che ritorni, perché Michele Corti appunto è uno degli estensori di questo manifesto. Ora cercheremo di recuperarlo. Comunque rimani con noi, Eleonora, nel frattempo sentiamo Matteo da Milano. Buongiorno Matteo. Buongiorno. Prego. Allora, quello che volevo dire, secondo me le sagre da qualche anno sono diminuite assolutamente di qualità e il motivo è che ormai, secondo me, la gente mangia, è abituata a mangiare peggio e quindi non se ne accorge. E la sagra per la maggior parte della gente non è la ricerca del prodotto, del territorio particolare, ma semplicemente un posto dove mangiare a poco prezzo. E quindi lei dice che siccome si cerca di scendere verso il basso, questo è uno dei grossi problemi, sicuramente non si può far pagare dei prezzi alti, però sicuramente bisognerebbe stare attenti appunto a tutto, non solo a quello che si propina, ma anche come lo si propina anche dal punto di vista igienico, e anche qui ci sono dei grossissimi problemi. Devo dire che dagli SMS ho veramente due mondi, chi li difende, chi difende le sagre, vuole che continuino, chi addirittura ne chiede l'abolizione. Ma sentiamo un altro radioascoltatore, Gianfranco dalla provincia di Teramo. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Volevo fare un appunto sul, diciamo, il censimento delle sagre. Io mi sono trasferito da Brescia in Abruzzo, una regione che amo in modo smisurato. Ogni anno c'è una pubblicazione che viene allegata a dei quotidiani, che è Borghi e Sagre d'Abruzzo, dove vengono mappate nel dettaglio tutte le numerosissime sagre abruzzesi e nel dettaglio i paeselli e le città dove si svolgono, e quindi da un punto di vista culturale e anche da un punto di vista enogastronomico, quindi con una piccola recensione di cosa si mangia, cosa si trova. Bene, grazie. È molto interessante. Grazie. Abbiamo ripescato Michele Corti. Buongiorno Michele. Appunto, stavo dicendo che tu sei uno degli estensori di questo manifesto. Tu pensi che si possa portare ordine nelle sagre dandogli così appunto dei principi ben saldi? Ma verranno rispettati questi principi? E questo è il punto. Intanto vanno un po' ancora codificati. Il lavoro che è stato fatto dal gruppo degli estensori del manifesto è comunque stato prezioso, perché ha messo a fuoco parecchi punti, parecchie quelle che dovrebbero essere le finalità genuine delle sagre e anche diversi paletti concreti che dovrebbero discriminare tra questi tipi di eventi e le tante tarocchi che ci sono in giro. Poi si tratterà di seguire delle vie di tipo legislativo, regolamentare, sia a livello nazionale o regionale, per tradurre questi principi che comunque mi sembrano già messi a fuoco abbastanza bene in atti. Ecco, qual è secondo te il maggior problema per riuscire a fare questo tipo di operazione? Beh, sicuramente da parte di molti soggetti organizzatori delle sagre c'è un po' una resistenza a rinunciare a quello che è il carattere di fonte di autofinanziamento di queste manifestazioni. Ecco, noi abbiamo molto insistito, ci sono ancora un po' di resistenze, devo dire, sul fatto che la sagra deve essere un evento di qualità che fa promozione, il territorio fa promozione per l'insieme delle categorie economiche, dagli imprenditori agricoli alla ristorazione, ai settori turistici, e coinvolge anche il mondo della cultura, ovviamente. Bene, grazie Michele. So che, ecco, sapevo che era in treno e quindi cadeva continuamente la linea, però diciamo il succo l'abbiamo percepito. Grazie a Michele Corti. Torno a Leonora Cozzella. Diciamo, mi piaceva intervenire su questo discorso, perché proprio per quanto riguarda la qualità e la difficoltà delle regole, mi piace sottolineare, non so se l'avete fatto prima di chiamarmi, insomma, l'etimologia della parola sagra, che viene da sacer, e quindi è comunque un prodotto di valore che ha un'importanza culturale ed economica per un paese. L'importante credo che questi prodotti siano radicati al territorio dove la sagra si tiene. Questo è fondamentale, fondamentale. Io direi passa delle improbabili sagre, che ne so, della birra in paesi magari dove non c'è una cultura della birra. Altrimenti diventa semplicemente una che si chiama sagra, magari perché è più facile trovare finanziamenti, non lo so, e perde veramente di qualità, andando poi a creare una fama negativa anche per altre sagre che magari invece rispettano tutti i crismi. Bene, Eleonora, ti ringrazio, ti lascio alla Svezia e noi continuiamo questo viaggio. Grazie. Numero verde 800 24 00 24, ma moltissimi sono gli SMS. Ne leggo uno: ma quei furboni che vogliono abolire le sagre non possono semplicemente evitare di andarci? E poi mi segnalano che domani a Fanano, provincia di Modena, sagra del fungo. Poi ancora, nella mia zona molte sagre espongono la pubblicità di un grande spaccio di surgelati. Benissimo, bella tipicità, mi dice Laura. E poi ancora potrei continuare. Il gastronauta. C'è chi li ama, chi le discute, chi vorrebbe abolirle, chi invece ne vorrebbe fatte molto meglio. Ebbene, la sagra sicuramente ormai è un argomento abbastanza così discusso, perché il numero è veramente cresciuto a dismisura, perché sicuramente ci sono delle sagre che funzionano benissimo e promuovono i prodotti del territorio, ce ne sono altre completamente inventate. Sentiamo un radioascoltatore, Valentino dalla provincia Monza-Brianza. Buongiorno Valentino. Sì, buongiorno a lei. Senta, si fa chiedere il tuo numero di telefono, che io ho un paio di cose da farle assaggiare. Vabbè, questo però non è una chiamata, ma lei mi voleva parlare di una sagra? Certo, io sono andato domenica alla sagra di Oreno, sì, e la sagra della patata. Solo che di patata non c'era proprio niente. Ho capito. C'erano dei gnocchi industriali che per Parigi non erano nemmeno buoni e le patatine fritte surgelate. Questo veramente sono i fatti molto negativi, ma c'è in redazione c'è Giorgio che alza la mano e dice: ci sono stato anch'io, poi ci faremo confermare o meno questa impressione. Grazie Valentino. Ho prima preannunciato una cosa molto divertente. Molto divertente perché non mi sarei mai pensato che esistesse la sagra della miseria, ma addirittura di sagra della miseria ne esistono ben due. Una a Campoli Appennino, in provincia di Frosinone, e un'altra a Rò, in provincia di Ferrara. Bene, io questa in provincia di Ferrara l'ho conosciuta qualche secondo fa, non ne conoscevo prima l'esistenza, mentre sapevo di questa sagra della miseria a Campoli Appennino che mi aveva molto incuriosito. E allora abbiamo con noi l'assessore al turismo del comune, appunto, di Campoli, Paolo Cipriani. Buongiorno Cipriani. Buongiorno, buongiorno a voi. Vedo che la miseria è dilagante in Italia, forse è il momento questo appunto di fare queste sagre per raccontare il momento economico che stiamo vivendo? Sì, potrebbe essere, diciamo, uno spunto anche quello. In realtà a Campoli Appennino abbiamo iniziato 4 anni fa con la prima edizione e quest'anno, diciamo, abbiamo celebrato la quarta con grande successo. Ecco, ma cosa volete promuovere voi, la miseria o i prodotti del territorio? Allora, la nostra sagra in realtà è nata per un motivo molto semplice, è nata per rievocare, per riportare, diciamo, sulle tavole dei campolesi i piatti poveri che consumavano le popolazioni ciociare nei periodi di massima povertà, nel primo e secondo dopoguerra soprattutto, per cui è stato un momento di veramente toccante in cui le massaie all'interno delle vecchie cantine, delle vecchie botteghe del centro storico di Campoli Appennino, le massaie che poi sono figlie di quelle signore, di quelle vecchiette che ora tante non ci sono più, che hanno vissuto questi momenti di miseria. E all'interno di queste cantine, di queste botteghe, abbiamo riproposto questi piatti poveri che consumavano. Quindi diciamo avete voluto riscoprire le tradizioni del territorio, se ben capisco. Abbiamo voluto riscoprire le tradizioni del territorio e far conoscere ai ragazzi di oggi quello che mettevano sotto i denti i loro bisnonni e i loro nonni. Bene, mi risulta che voi, così come Benvenuto, avete appeso all'ingresso del paese due aringhe. Sì, in realtà stavano alla prima cantina di questo percorso enogastronomico. Alla prima cantina c'erano due aringhe perché in realtà in quei periodi di massima povertà era un alimento che si trovava a buon prezzo e si strofinava il pane su queste aringhe e la sera diciamo le famigliole mangiavano questo pane insaporito del sale delle aringhe. Ecco, ci vuol dire un piatto della tradizione vostra territoriale locale che avete riproposto? Non la ricetta, semplicemente se mi dici. Sì, abbiamo fatto per esempio la minestra, il pane a mollo, che praticamente è un piatto veramente poverissimo, fatto col pane raffermo, che viene imbevuto con un brodo di vegetali. Oppure abbiamo fatto le tacconelle e fagioli, che è una pasta diciamo molto molto semplice. Bene. Con acqua e farina e condita con un sughetto e fagioli. Ecco. Beh, io se questi sono i piatti della miseria verrei volentieri, cioè mangerei sempre volentieri così. Grazie a Paolo Cipriani di Campoli Appennino. Sentiamo Matteo da Vicenza, un radioascoltatore. Buongiorno Matteo. Sì, buongiorno. Volevo solo dirvi che fondamentalmente bisognerebbe probabilmente distinguere fra quello che è sagra e quello che è festa. Sagra, vengo da Vicenza, dove una sagra famosa è quella del baccalà di San Drigo. Che sì, mi viene segnalata da molti radioascoltatori, infatti. Sì, si va tranquilli lì. Ovvio che se si va alla sagra del pesce di Costa Bissara, voglio sempre in provincia di Vicenza, non è che si possa pretendere chissà che cosa. Però lo spirito con cui viene fatto è diverso, nel senso che la sagra va bene e promuove il prodotto del territorio. Bene. Se la chiamiamo festa e si riesce a tirar su fondi per società no profit eccetera, diventa un altro discorso ancora. Bene. Ovvio che la gente che va a mangiare in queste feste e non sagre sa quello che va a mangiare. Bene, la sagra sicuramente, lo ripetiamo, deve essere un qualcosa che ricorda il territorio, lo sviluppo del territorio, quindi un prodotto del territorio. Festa può essere così, tanti prodotti magari del territorio e anche di più territori, quindi facciamo questo distinguo netto, ma vedo che mi segnalano parecchi radioascoltatori la sagra della miseria di Colle Valdelsa, quindi un'altra sagra ancora. Bene, io ora ho in linea Guglielmo Nardocci, che è il portavoce della Unione delle Proloco Italiane, che per l'80% organizzano appunto le sagre in tutta Italia. A Guglielmo io voglio chiedere una cosa. Mi risulta che lui sia forse colui che più di tutti conosce le sagre, perché ha fatto un giro dell'Italia per rendersi conto. E allora io vorrei che in due minuti mi facesse lo spaccato di questa Italia delle sagre che lui ha visto. Buongiorno Guglielmo. Buongiorno a te, a tutti i radioascoltatori. Beh, uno spaccato straordinario che ho fatto lungo l'arco di 5 mesi con il fotografo. Premetto, io sono inviato speciale di Famiglia Cristiana e curo la comunicazione delle Proloco e quindi abbiamo realizzato 20 servizi in 20 regioni italiane, scegliendo una o più sagre del territorio per capire, per raccontare attraverso la sagra cos'è il territorio, chi sono i protagonisti di queste manifestazioni, come le organizzano, da dove nascono, come crescono, si sviluppano. La maggior parte di queste sono tutte manifestazioni che hanno una storia qualche volta anche di 100 anni, alcune addirittura di 150 anni, le prime che diciamo di cui abbiamo testimonianza. Ed è una storia meravigliosa di persone, di protagonisti dei luoghi che diciamo volontariamente, sono tutti volontari, mettono a disposizione il loro tempo, la disponibilità delle loro famiglie per valorizzare il territorio, per valorizzare quel che di buono c'è nel territorio. Ha detto bene l'ascoltatore rispetto alle feste. Sì, esatto. Lui ha detto bene. La sagra è un'altra cosa, l'abbiamo detto più volte, è legata a una ricetta, è legata a un prodotto veramente tipico. C'è tanto imbroglio in giro, perché l'altro lato di questo lungo viaggio di 5 mesi che ho fatto in giro per tutto il paese è questo, cioè da un lato ci sono queste sagre gestite all'80% dalle Proloco, onestamente, ma ce n'è tantissime altre gestite da comitati molto seri, sempre però volontari che si organizzano e tutti gli anni ripetono l'evento. Però accanto a questa serietà e a questa organizzazione che risponde anche dei criteri di efficienza, di igiene e di garanzia da dare al consumatore, c'è ormai una marea di manifestazioni e io oserei dire, per quel che ho visto, che ormai queste sono le più, cioè non è più come prima che c'era la sagra quel giorno dell'anno, no, ormai sono più le sagre pazze, le chiamo così, nel senso di pazze, non nel senso... Nel senso che deviate, così, chiamiamolo così, deviate. Come i funghi, certo. I funghi pazzi accanto a quello buono, nascono in continuazione, sono le sagre mordi e fuggi, fatte per guadagnare qualche lira. Io devo dire onestamente, Davide, qui bisogna fare un discorso chiaro con i comuni e con i sindaci di questo paese, specie in alcune aree, perché la sagra viene adoperata anche come strumento di raccolta di consenso elettorale, cioè si aiuta l'amico che ti ha dato i voti. Addirittura io posso segnalare alcuni casi in provincia di Viterbo dove ci sono delle sagre fatte nei casali di agriturismi. Quindi ci sono... Allora, prego. Allora, questa è malvivenza. Certo. Vera e propria malvivenza, poi ne soffrono i ristoratori, ne soffrono gli imprenditori locali, quelli seri che cercano di valorizzare insieme alle Proloco e alle altre associazioni il prodotto locale onestamente, ne soffrono anche le nuove figure imprenditoriali, cioè quelli che fanno bed and breakfast, quelli che fanno il miele, quello che fanno le marmellate, quelli che cercano di valorizzare il territorio e di offrire a questa nuova forma di turismo di fine settimana Delle cose interessanti. Bene, io Guglielmo ti fermo perché hai dato una fotografia perfetta e ora sentiamo anche un po' di radioascoltatori. Grazie Guglielmo e a presto. Sentiamo Antonio da Vercelli. Buongiorno Antonio. Buongiorno a voi. Io telefono perché in qualità di vicepresidente della Sala dei Pubblici Esercizi ritengo che questo tipo di problematica, soprattutto come l'ultimo radioascoltatore ha ben descritto, mette in grandissime difficoltà le nostre aziende, i nostri ristoranti, le nostre trattorie, i nostri pubblici esercizi. Il proliferare di eventi chiamate sagre, che di sagre hanno poco, non fanno altro che metterci veramente con le ginocchia per terra. Il problema di fondo sta nel fatto che oggi le sagre sono diventate decine di migliaia sul nostro territorio nazionale, che poco hanno a che fare, molte di loro, sulla riscoperta e sulla tradizione territoriale, ma molto hanno a che fare su una raccolta di denaro e che non si sa bene che cosa. E poi c'è un altro problema di fondo, che è quello dell'aspetto della salvaguardia dell'igiene e sanità. Sì. E la sicurezza. Vorrei citare solamente che nella mia provincia non più di 3 mesi fa esplose una bombola con 3 morti in una sagra, e questo sono problemi importanti. Ritengo che il manifesto, come prima citato dal professore, potrebbe essere una cosa indispensabile per fare quantomeno una chiarezza su ciò che è sagra. Bene. E ciò che è festa. Bene, guardi Antonio, che a questa stesura di questo manifesto partecipa proprio un suo collega vicepresidente della FIPE, quindi anche lui ha portato, se vogliamo, queste considerazioni. Grazie. Il gastronauta. Eccoci di nuovo sul finale, ancora a parlare di sagre. Ormai risultano evidenti questi problemi attorno alle sagre, l'utilità di promuovere territori e prodotti, ma dall'altro lato ci sono anche degli aspetti molto negativi che abbiamo sentito. Ora sentiamo Paolo da Novara, un radioascoltatore. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno. Senta, io volevo porre una domanda a lei e ai suoi ospiti. Io ero sabato ad Arona e c'era un... Può spegnere la radio perché si sente il rimbombo? È spenta la radio. Ok, bene, bene. Allora parli. Niente, dicevo, io a Novara, ad Arona e ad altri posti ho trovato delle mercatini, feste di paese, eccetera, con praticamente sempre le stesse bancarelle. Io mi chiedevo, capisco la questione di proporre magari dei format che funzionano, però in questo modo non si rischia di riproporre un qualcosa che è più simile a un supermercato che è una sagra di paese? Senta Paolo, lei si è già risposto da solo e la risposta non può essere che quella appunto di dar ragione alle sue considerazioni, quindi è inutile aggiungere qualcosa. Sentiamo Margherita da Udine, buongiorno Margherita. Buongiorno Paolini, buongiorno. Allora, premetto che io per mestiere lavoro, diciamo, in un ambito di stampa free press e con una pubblicazione che è proprio un collettore di tutte le sagre del territorio qui regionale. Sì. E quindi ho, insomma, una certa panoramica. Bisogna fare un grosso distinguo, perché ci sono tre categorie sostanzialmente. Una è la festa paesana qui in Friuli, dove ci sono ancora comunità rurali, insomma paesi, dove veramente c'è i ragazzini che si tirano su le maniche, lavorano con la Proloco, no? Cioè, ed è una festa per la comunità, la sagra paesana, insomma, la patronale. Poi invece ci sono delle entità promosse dal pubblico con finalità turistiche e poi ci sono invece dei veri e propri business. Certo. Né più né meno. Comunque qui in Friuli abbiamo appena avuto Friuli Doc, non so se lei conosce questa sagra, sì. la madre di tutte le sagre. Beh, questo è un festival, non possiamo considerarla sagra. La chiamano, sì, la mamma di tutte le sagre, sì, perché sostanzialmente la città di Udine si trasforma in un'unica, sì, grande festa, quest'anno purtroppo un po' rovinata. Ho i miei dubbi su questa definizione, comunque. Sì, comunque c'è una ricaduta turistica, perché certo, ho avuto degli amici e anche nelle sagre se sono organizzate, però bisognerebbe trovare dei criteri, non si può parlare, cioè mi disturba un po', capisco perfettamente il discorso degli ristoratori che si sentono minacciati, anche giustamente, perché effettivamente ci sono degli abusi, però andrebbero creati dei criteri di distinguo. Certo, ma dicevo prima, questo manifesto che, diciamo, è in gestazione in questi giorni, Work in Progress a Montecatini, ha proprio questo obiettivo di sottoporre un primo documento magari a tutti gli organizzatori della sagra e il resto di questo. Grazie Margherita da Udine. Sentiamo, ora andiamo in Sicilia, andiamo da un giornalista, andiamo da uno che conosce molto bene la sua terra, che è direttore di Cronaca e di Gusto, nonché giornalista del Giornale di Sicilia. Buongiorno Fabrizio Carrera. Buongiorno a tutti voi, Davide. Che succede nelle sagre in Sicilia? Ci sono sagre vere, ci sono sagre fasulle, ce ne sono tante, ce ne sono poche? Diciamo che c'è di tutto e di più, nel senso che, vabbè, negli anni un po' il fenomeno da scemare, devo dire che il livello medio delle manifestazioni si è alzato ultimamente. Insomma, ci sono alcune manifestazioni che nascono dal concetto di sagra, ma poi sono evolute nel tempo, offrendo una qualità migliore di quello che si realizzava, coinvolgendo anche protagonisti e attori, secondo me, di livello più elevato. Però il concetto di sagra base esiste, ma questo è un problema che poi riguarda gli enti locali nella capacità di organizzare, di capire quali prodotti del territorio, quali iniziative possono migliorare l'immagine del proprio comune. Però c'è un po' di tutto. Ricordo qualche anno fa in provincia di Palermo, a Termini, Merese, una sagra del pesce azzurro dove era soltanto un assalto alle cavellette, insomma, ecco, poi per fortuna l'hanno più fatta. Ecco, infatti questo è un po', diciamo, sono i lati negativi. Rimani con noi. Ora abbiamo Elisabetta Del Bene, assessore al turismo e alle manifestazioni, ed è tra gli organizzatori della sagra acciuga salata di Monterosso. E a lei volevo chiedere, Monterosso è famosissimo per questo prodotto, per l'acciuga, anzi vanno a ruba le acciughe di Monterosso. Mi chiedo, nonostante la notorietà, la sagra ha portato qualcosa in più, diciamo, per diffondere questo tipo di prodotto e per far conoscere Monterosso? Ma sinceramente Monterosso ha bisogno forse anche delle sagre, però è conosciuto ovunque a livello italiano, internazionale. Noi abbiamo un sacco di turismo che viene dagli Stati Uniti, dall'Australia, e queste persone apprezzano molto queste feste perché ritrovano il concetto di paese, di aggregazione, perché a queste sagre collaborano un sacco di volontari del paese, proprio dai bambini alle persone adulte che si prestano per tutta la giornata nel caso dell'acciuga salata a preparare queste acciughe che poi verranno degustate sul pane e nell'acciuga fritta, che vengono fritte nella padella di ferro a forma d'acciuga per tutto il giorno. e quindi è grazie anche a questi volontari e a, a tutte queste persone che queste feste possono continuare ad esistere, ecco, e andare avanti. Le faccio una domanda che è uno dei, così, degli interrogativi che sono sorti durante anche questa trasmissione. Sì. Ci sono utili in queste sagre? Se sono utili, dove vanno? No, noi veramente non gli utili, noi paghiamo, queste sagre sono organizzate dal comune in collaborazione con le Proloco locale e con un'associazione culturale di Monterosso che si chiama Tragagià, e noi con questi vendiamo questi prodotti che praticamente servono, e gli utili incassati servono per coprire le spese delle materie prime e se no investite per altre manifestazioni. Altre manifestazioni. Bene. Cioè non è che... Bene, quindi vanno reinvestiti in altre operazioni promozionali che riguardano il territorio, questo è il punto importante. Grazie Elisabetta Del Bene. Io ho un'ultima domanda secca a Fabrizio Carrera. Secondo te le sagre in Sicilia sono quelle, diciamo, legate a un prodotto, sono servite a diffondere, a far conoscere il prodotto e il territorio? No, secondo me sì. Ci sono alcuni esempi, io parlo del pistacchio di Bronte, c'è una sagra i primi di ottobre, in questo comune della provincia di Catania sull'Etna, per esempio, credo che possa servire ulteriormente a far conoscere il prodotto. Penso al couscous, proprio in questi giorni c'è il couscous fest a San Vitolo Capo in provincia di Trapani, penso che sia stato un modo per sdoganare questa parte della Sicilia e per far, come dire, alzare anche lo di conoscenza verso il piatto. Il problema è che poi ci sono alcuni comuni invece in Sicilia dove è curioso, c'è la sagra del miele a Sortino, provincia di Siracusa. Il problema è che Sortino ha perso il primato produttivo del miele, sia in fatto di quantità che di qualità. La sagra però si continua a fare. Succede. Grazie Fabrizio Carrera. Un'ultimissima, Luca dalla provincia di Pavia, le do 30 secondi. Buongiorno, senta, io faccio il cuoco, quindi sono in un ristorante e chiaramente noi dobbiamo fare dei corsi per la HACCP, per la conservazione delle materie prime, eccetera, eccetera. Dato che comunque in queste sagre sono gente come casalinghe, volontari, vorrei sapere da lei o dai suoi ospiti se queste persone comunque vengono addestrate tra virgolette per la conservazione, per la cottura delle materie prime, eccetera, eccetera. Luca Grande, questo è un altro tasto dolente. Io credo che la buona parte no, le posso rispondere, però speriamo che in futuro questo avvenga. E qui chiudiamo il nostro viaggio tra le sagre. Io vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 12:15, ogni giorno con la pillola alle 11:05 e alle 23:05. Ringrazio in regia Peter Bescapè, in redazione Anita Panizza e Giorgio De Luca. Buon weekend.